quando finisco nei bagni pubblici. Mi trovo a studiare la meccanica alquanto quantistica dei peli pubblici. Quando laggiù come c'è finito? E io qui come ci sono finito? Non mi sto chiedendo perché sono in un cesso adesso, ma perché mi trovo sempre ad analizzare. Il punto è che anche se volessi forse non saprei raccontare, perché ogni mio aneddoto rimbomba sempre nel mio ego con un eco concettuale. Si vede che studi filosofia. È una delle analisi che mi propongono più spesso, solo che spesso deriva dal distacco sempliciotto dal procedimento, dal ragionamento, dal fatto che affronto certe tematiche in contesti in cui per loro abitudini non c'entrano. Ma in questi casi confondono il filosofo con l'eccentrico, categoria nella quale rientro già dalla fase che ha preceduto il mio studio. Non mi conosci, l'immedesimazione non è altro che una pareidolia ideale che non ammette di essere tale.